Mi Gregory, just do a check of your voice for my radio show, please. Hello, this is Gregory Porter, and I like chicken and black-eyed peas, mashed potatoes, gravy, greens. Sounds good. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24. Questa era soltanto la prova del suono per vedere se la voce di Gregory Porter, che oggi nostro ospite, funziona anche attraverso il nostro soundcheck e quella nostra. Gregory, I'm so happy to see you. Yeah, I'm glad to be with you, man. It's been a while. Yeah, noi ci siamo visti, abbiamo trascorso un bellissimo capodanno insieme l'anno scorso a Umbria Jazz Winter a Orvieto with Kurt Elling. È stata un'edizione tutta dedicata ai grandi vocalist. E ora ho il piacere di rivederti qui nel nostro radio show per parlare di questa nuova, recentissima pubblicazione. Ha registrato due dischi prima di Liquid Spirit per la Blue Note. So you recorded two fantastic productions for an independent label, but right now you are with Blue Note Records. What do you feel? Che cosa provi, che cosa senti sapendo che sei con la Blue Note Records adesso? Well, Blue Note has been a standard of a jazz style and music for such a long time. It was a real honor to be asked to be on the label, and they said to me from the beginning, just be myself, and you know, continue to write and sing the way that I do. They didn't ask to try to change me or anything like that. So, yeah, so that's what's happened, and I find myself living a dream. Why not? Ecco, sta vivendo un sogno con la Blue Note in questo momento, perché la Blue Note anche per lui è uno standard per quel che riguarda il jazz. E poi è arrivato questo contratto e alla Blue Note gli hanno soltanto di essere se stesso. So they say be yourself, and what do you feel when you sing? Well, I'm trying to just bring the emotions that I think about and feel, the culture that I see around me. I'm just trying to bring that to melody and song, and I think ultimately that's what jazz is like: absorbing culture, emotion, feeling, surrounding, and bringing it to music. Yeah. Quello che lui cerca di esprimere cantando è quello, sono le sue emozioni, tutte le sensazioni che prova, ed è quello che si cerca di esprimere con il jazz, ascoltando quello che c'è intorno e riproponendo tutte le emozioni attraverso la vocalità. Gregory ha una voce fantastica. You have a fantastic voice because I think that, yeah, it's jazz, but you have a lot of soul. C'è molto soul nella sua voce, probabilmente il background e la musica che lui ha ascoltato da bambino. Jazz, soul, R&B, I can feel a lot of different feeling from your fantastic vocal. Yeah, well, you're hearing all of the cousins of jazz, all the cousins and children of jazz and blues and gospel and soul, and I think these musics are very close together, and I'm simply, you know, co-mingling cousins. And so it's a natural thing, and also I'm asking the listener to, you know, put away these thoughts and these ideas of what they think jazz is, because quite frankly, if we listen to all of the recordings of Carmen McRae, all of the recordings of Ella Fitzgerald, you'll hear the world of music, of Etta Jones and Etta James. You know, I could go on and on. Sì, anche nei grandissimi artisti come Ella Fitzgerald, Carmen McRae, si ascolta di tutto quando cantano, non solo il jazz, ma si sente un mondo intero, che è quello che il nostro Gregory Porter ci trasmette anche in questa pubblicazione. Quindi per lui non fa nessuna distinzione se jazz, soul, gospel. Lui canta quello che è, e lo canta molto bene. E allora, you want to introduce No Love Dying, that is the first track of this fantastic album, la prima traccia, No Love Dying. No Love Dying is a song that's written in the defense of love, and it's for the people who believe in love and just realize that the symbols of the death of love is just coincidence, symbols that have nothing to do with this love that will not die. No Love Dying. L'amore non muore perché bisogna credere nell'amore. Gregory Porter al soundcheck di Radio 24. There will be no love that's dying for you and me. Oh, there will be no love dying here. No, not for me. There will be no love that's dying here. No, there will be no love that's dying here. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. There will be no love dying for me. Gregory Porter è ospite del soundcheck di Radio 24, No Love Dying, dal bellissimo Liquid Spirit. Restate con noi in contatto con il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Clap your hands now. Liquid spirit, e questa era la bellissima Liquid Spirit che dà il titolo al nuovissimo album di Gregory Porter, qui ospite del soundcheck di Radio 24. Io sono felicissimo di incontrare un omone di questa portata, un fisico. Con questo fisico avrebbe potuto fare di tutto, anche il giocatore di football americano. You could be a football player. Invece c'ha un'anima e un sentimento strepitoso che viene fuori dalla sua vocalità. So tell me about the atmosphere in your own place. Voglio sapere qual era l'atmosfera che si viveva a casa sua quando era bambino. About the music when you was a teenager. Well, yeah, there was a lot of music going on. My older brothers and sisters, played, the music of their childhood. And so, in a way, I was hearing, a lot of the soul music of the 70s. And I was also getting gospel influences and gospel blues influences from being in church with my mother. My mother was a minister, and so, and the interesting thing is, I came to jazz because of gospel, the way my mother and my grandmother sang. So gospel is the connection for jazz. Quindi ha iniziato anche a frequentare la chiesa, was a Baptist church. Yes, it's an offshoot of a Baptist. It's called Church of God in Christ. It's one of the largest black African American denominations in the United States. And so, allora, quindi, I'm sorry. Quindi ha iniziato a frequentare la chiesa con la mamma e poi attraverso il gospel si è avvicinato al jazz. E la musica che si ascoltava a casa quando ero bambino era tutta la musica soul e funk degli anni 70. So let's talk about Liquid Spirit. Voglio parlare di questa nuova produzione per la Blue Note. You are the producer also of the album. So what kind of concept was for Liquid Spirit? Qual è stato il concept con il quale ha realizzato questa produzione, perché lui è anche il produttore dell'album. Along with Brian Backus and my good friend who's been co-producing on the other records, Kamal Kenyatta. The concept comes about after the record is done, You take a listen and it's like, this is what it is. That's how it's like you paint and then you step back and look and see what it is. The things that are coming out of me in the record are the bitter and the sweet of love, a conversation about culture and music. I think when I look at Liquid Spirit, when I look at musical genocide, what I'm saying, and even the in crowd, what I'm saying is let the music free. Let the music free. The bridge of musical genocide is give me a blues song, tell the world what's wrong. That's to suggest to people, the blues is an ultimate protest music. Let that protest be heard. You know what I mean? Don't make everything so doggone cool that you don't hear the protest. You understand what I'm saying? Yeah, absolutely. Quindi praticamente con Liquid Spirit è il momento della maturità. Dopo aver registrato i due dischi precedenti con il suo producer, ha capito che il passo successivo era essere se stessi, e quindi c'è stata una crescita stilistica. Tutto quello che gira intorno alla produzione di Liquid Spirit comunque si basa essenzialmente sul blues, che per lui è la migliore forma di protesta possibile. Hill blues, so blues is important. Blues is important. Messages of love. And what I'm saying with the lyric, give me a soul. What about the soul singer with your heart in the palm of his hands telling his stories of love and pain? That's a direct conversation about the music of the 70s that was so uplifting. It was always about family, mama, looking upward, trying to make it. You can do it. If Donny Hathaway, someday we'll all be free. That's it right there. Ha detto la parola giusta, ha detto Donny Hathaway, che è ancora un modello da seguire, assolutamente nella vocalità ma anche nell'utilizzo dei testi. Negli anni 70 si parlavano di amore, di papà, della famiglia, ma in questo momento tutti questi concept vengono espressi per parlare di qualcosa di più importante, senz'altro l'amore. Do you want to introduce the next song, Musical Genocide? Musical Genocide is the first words of the song is I do not agree. This is not for me, musical genocide. I do not agree. This is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24 con nostro ospite graditissimo Gregory Porter. Ci troviamo al centro di Roma in un bellissimo bar vicino a una sala da concerti dove tra l'altro Gregory ha fatto un suo concerto l'anno scorso affollatissimo. Io spero di rivederlo dal vivo con il nuovo progetto, con il nuovo album Liquid Spirit. So right now you are in Italy for promotion, but I hope to see you soon live performing with your fantastic band. Spero proprio di rivederlo dal vivo con la sua ottima band. So how many gigs you played this year? Quanti concerti ha fatto quest'anno? You know, somebody told me it was over 200, and so più di 200. I think that's pretty correct, because I haven't been home much. And this is the problem for a musician. Il problema per un musicista è quello di stare molto fuori. Con 200 concerti sulle spalle significa che la famiglia l'ha frequentata molto poco. It's both a problem and it's beautiful at the same time. Sì, è un problema ma anche un piacere al tempo stesso. Most of this last record I wrote while on the road, on the trains and planes. I write quite a bit when I'm moving and in motion. Ecco, ho scritto molte tracce di questo album proprio in movimento, viaggiando e in giro per concerti. So the movement is okay with me, but you know, that creates an energy inside of you. I miss my friends, I miss my family, and so that energy comes out in the music as well. You understand? Ecco, tutta l'energia che ha ricevuto proprio con il fatto di sentire lontani i suoi amici, la sua famiglia, l'ha riportata nel disco e nella musica viaggiando e facendo i concerti. You talk about gigs and the success of being out on the road. One thing that I find extraordinary and that warms my heart every time is watching culture, not just music culture, but the culture, cafe culture, food culture, mothers and children, all that. I just keep saying to myself, we are the same. As many lines as we try to draw between ourselves, you know, between race, nationality, we all generally want the same thing. We want to love our children, we want to eat something good, we want to drink something good. Ecco, tutta l'energia che viene girando, lui la prende proprio dalla cultura, che è per lui, lui non parla soltanto di cultura musicale, ma di tutto quello che vive, dal cibo, anche il fatto di vedere mamma e figli insieme. Insomma, siamo umani, siamo tutti uguali, non ci sono problemi di razza. I think it's a concept, eh? Yeah, it's even musically, you know, people can say, oh, this song will do well here, or this song will... Actually, No Love Dying works in Italy, in France, in the US, and people are the same. Sì, ci sono dei concept che funzionano in tutto il mondo, non scrive musica soltanto per gli Stati Uniti, la Francia o l'Italia, ci sono dei concept che sono universali. E allora, I wanna play some music, ancora una traccia da Liquid Spirit, and I like a lot Water Under Bridges, e questo è Gregory Porter al soundcheck di Radio 24. It's like water under bridges that have already burned, they say. It's like water under bridges that have already burned. Beh, sono dispiaciuto, mi dispiace un sacco lasciare Gregory Porter e chiudere così questo appuntamento del soundcheck di Radio 24. So I hope to see you soon, Gregory. Maybe in Italy, maybe in United States, we are players, we don't know what happened, no? Non sappiamo quello che succede, siamo dei musicisti, siamo sempre in giro, ma ci rivedremo presto. Yeah, well, wherever we meet, I'm gonna try to keep the music as soulful as possible. You know, I'm thinking about the tune, The In Crowd, and how Ramsey Lewis did it, and he was straddling, in the 60s, straddling the line of jazz, blues, and gospel. That's the reason I chose the song, is because even then, the mix of these cousins was taking place. And so that's all I'm trying to do is recreate what was laid down by a very very soulful piano player, Ramsey. Sì, è perché stiamo per chiudere con la sua versione di The In Crowd, un brano di Bill Page portato al successo tra l'altro da un live di Ramsey Lewis negli anni 60, was in Washington DC at Bohemian Cafe, was the original recording of The In Crowd. E il fatto di stare in mezzo alla gente, ecco, noi ci ritroveremo probabilmente prestissimo, magari facendo pure musica insieme. Maybe one day we'll be on the stage together doing music. We don't know what happens. Let's get it together, man. Let's not waste no more time. Come on. The In Crowd, il fantastico Gregory Porter. Thank you very much. Hope to see you soon, my brother. Grazie. I'm in with the In Crowd. I know the latest dance. When you're in the In Crowd, so easy to find romance. Any time of the year, don't you a hair. If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Soundcheck. Il suono della musica.